7. Ascolta e controlla. 1. Che cosa c'è sul tavolo? Ci sono molti fogli. 2. Quanti anni hai? Io ho 18 anni. 3. Che cosa c'è in frigorifero? C'è un dolce. 4. Che cosa c'è in giardino? Ci sono tanti alberi. 5. Che cosa c'è in televisione? Non c'è niente. 6. Quanti anni avete? Noi abbiamo 20 anni.